Terminato il GR di Radio Popolare, riprendiamo la linea e partiamo subito in mostra. Giovedì, oltre che giornata di forza, è giornata regola d'arte. Oggi, tra grafica, design e video arte, avremo motivo di approfondimento per la nostra città. Sensitive by Design, un'esposizione che dal 25 giugno, quindi qualche giorno, è presente in sedi, di cui ci parlerà l'artista qui in diretta con noi. Oltretutto, sto scoprendo che abbiamo diversi musicisti, produttori, artisti, teatranti che sono ben disponibili alla mattina e questo mi fa molto piacere. Buongiorno Mirko, bentrovato. Buongiorno e buongiorno a tutti. Salve. Grazie per questa conversazione. Il buongiorno a Mirko di Francesco Antonio, che appunto è protagonista con questa idea che già dal titolo porta all'immagine di grafica e design, Sensitive by Design, un'esposizione dal 25 giugno nei locali del Pollaio e di Sbando. Alle 19 vi è stato il vernissage del 25 giugno di questa esposizione. E la domanda è: se il cliente di un designer fosse non un'azienda ma una questione etica, punto di domanda, cosa succede Mirko? A te la parola. A questo punto, ecco, viene affrontato esattamente come verrebbe affrontato, diciamo, ecco, una campagna pubblicitaria o la creazione di un logo design. Ecco, questa esigenza, questa idea è nata fondamentalmente dal fatto che dal pensiero che molto spesso le campagne commerciali vediamo che sono molto più magari influenti e forti, no? Rispetto a delle campagne di comunicazione che riguardano l'argomento sociale, ma non perché le seconde non funzionino, ma se vediamo proprio l'impatto che ha verso l'utente, spesso magari, ecco, quella commerciale è a volte molto molto più forte, no? Molto più memorizzabile. Questo fatto di essere memorizzabile molte volte è legato anche al discorso che dietro c'è un qualcosa di molto sintetico e quindi appunto memorizzabile, che può essere un logo. Allora la mia domanda è stata: come sarebbe se affrontassimo appunto un argomento, un fatto di cronaca, un argomento sociale, etico, lo trasformassimo in un logo, come se questo pensiero fosse un cliente stesso, no? Che ti parla delle sue ambizioni, ti parla di dove vuole arrivare, di cosa parla, e tu in maniera molto sintetica devi ecco appunto ingabbiarlo secondo i criteri di una progettazione di un logo. Allora, Mercato Albani, presso il Pollaio e lo Sbando, ovviamente a Bologna, sono idee per dare un'importanza e sintetizzare sull'onda appunto dell'aspetto di design e visivo, come spesso capita, anzi abitualmente in ambito commerciale, in questo caso, come dice il titolo, con una sensibilità per un'idea etica, per un messaggio sociale, tutto quello che può riguardare qualcosa di diverso, diversamente normale in altri ambiti che addirittura sono molto più importanti a volte che la commercializzazione. Li stiamo un po' dimenticando purtroppo, e quindi onore al merito a chi ha voluto portare con la tecnologia, con l'idea, con la fantasia e la creatività qualcosa che possa rappresentare anche un'idea, un aspetto sociale, un motivo per cui portare avanti le proprie opinioni e le proprie sensibilità. Ho intuito e sintetizzato anch'io come tu vuoi portare l'immagine e il messaggio per Sensitive by Design, Mirko? Sì, direi assolutamente sì. Ecco, magari una piccola cosa forse per far comprendere meglio, certo. Questo progetto è nato, il primo di questi loghi è nato, ecco, nel periodo in cui appunto Zaki era incarcerato, no? Allora tutti quanti giustamente noi cercavamo un po' di farci sentire, di chiedere insomma, ecco, la sua scarcerazione e liberazione. Allora mi sono detto, ecco, se tu prendi proprio il pensiero stesso, Zaki libero, liberato Zaki, come fai a trasformare questa cosa in un logo come se fosse con lo stesso criterio di un logo commerciale, che quindi deve essere sintetico, deve essere immediato. E da lì insomma è partita tutto un po' la progettazione, ho immaginato insomma, certo. L'idea, sì, lui insomma che apre le sbarre, che è libero, da qui ho provato insomma a portare questo discorso anche in altri argomenti. E l'esposizione riporta, entrando in mostra, insomma, un percorso, quante opere, insomma, con che concetto, ecco? Allora, l'esposizione conta 8-9 tavole. In ogni tavola vedremo la costruzione, quindi l'outline del logo sulla parte sinistra. Sulla parte destra vedremo il definitivo. Quindi Sì. ecco, l'utente avrà il modo di vedere proprio la costruzione stessa, la progettazione del logo, come è venuto fuori, con quali simmetrie e con quale sinteticità. Collaborazioni. Collaborazioni e Sei un uomo collaborazioni. solo al comando di questa idea, Mirko. Collaborazione, ma a me piacerebbe moltissimo magari ecco, lanciare un po' anche quest'idea, magari mettere insieme diverse persone della comunicazione che inizino a lavorare anche sul discorso insieme, no? Sul Certo. discorso del sociale. Io sono un freelance, sono un libero professionista, quindi chissà che magari ci siano anche altre persone che abbiano un po' queste esigenze, queste idee, ecco, secondo me mettendo insieme più teste, più mansioni, ecco, in qualche modo si riesce forse a lavorare anche a delle campagne pubblicitarie che possano sensibilizzare meglio su certi argomenti le persone. Quindi alla ricerca, anche se vogliamo, dopo questa idea di riportare una sensibilità di insieme. È partita il 25 giugno, fino a quando sarà? Hai già qualche idea? L'altra volta quando ci siamo sentiti, beh, stiamo valutando per quanto riguarda l'aspetto di termine della mostra. Sei arrivato a una conclusione? Sì, alla fine si chiuderà entro, insomma, ecco, fine luglio, Ok. diciamo che tiriamo, ecco, tiriamo fino a fine luglio, alla fine, sì. Qualche notizia, anche qualche informazione sulla sede espositiva a Mercato Albani? Beh, Qualche informazione, scusami, sì, sulla? sulla sede espositiva a Mercato Albani. Ah, sì, ecco. Allora, la mostra appunto si terrà tra il pollaio e lo sbando, quindi sarà appunto diviso in due, troverete alcune tavole nella prima, alcune tavole nella seconda. Abbiamo appunto adattato tutto quanto agli ambienti, quindi per esempio nel pollaio vedrete le opere che sono esposte proprio sulle gabbie, no? Che caratterizzano il Certo. locale stesso. Nello sbando invece ecco, saranno presenti dentro la piccola stanza interna e è una cosa poi che mi piace molto perché poi ecco, porti proprio la mostra in mezzo alla gente, non è isolata, ma ecco, fai in modo di vivere, ecco, di convivere insieme appunto alle persone che vanno lì, fanno aperitivo, fanno le loro cose, fanno la spesa, ecco, quindi in È in qualche modo. dialogo. È in dialogo, esatto, è in rapporto proprio con la vita quotidiana delle persone del mercato Albani, alla fine. Bene, io ti ringrazio tanto per questa conversazione che ha presentato la tua idea di Sensitive by Design. Restiamo in contatto perché la trovo molto interessante. Grazie Ringrazio. Mirko, una buona giornata e appuntamento a un'altra idea che possiamo portare in mostra sui 103.1. Grazie Mirko, buona giornata. Grazie, grazie, buongiorno, ciao. Arriva solo ora il messaggio di Matteo. Buongiorno Matteo, che dice: ah, ma ieri dal balcone al Comini Express c'ero anch'io. Allora che arrivi un grande abbraccio anche a Matteo. Grazie Matteo. C'eri, ci sei sempre e comunque dal balcone, ma chiaro, se vuoi fare anche due piani di scale, io sono ben contento di poter condividere la serata. Grazie intanto, una buona giornata. Scusa, è arrivato solamente ora al 333-180-9494. Grazie Matteo. Austin Peralta, musicista finlandese, dal disco Endless Planets, questi pianeti infiniti. E questa idea di sensibilità che grazie a Mirko Di Francesco Antonio è stata presentata. È stata presentata alle 19 di martedì 25 giugno in Mercato Albani presso il Pollaio e lo Sbando. È un'idea che dà un'attenzione al sociale, a qualcosa che può andare oltre a una commercializzazione per quanto riguarda una sintesi con la grafica, ed è un percorso che, oltre a stimolare la fantasia, la creatività, l'arte, è anche qualcosa in cui l'identificazione diventa importante, una sintesi per quanto riguarda argomentazioni molto molto importanti. Beh, è stato citato Patrick Zaki e tante altre situazioni che possono essere rappresentate grazie appunto creatività ed arte, e la capacità anche con la tecnologia che dà possibilità ulteriore. Grazie a Mirko. 7:59 minuti, ancora un po' di musica, andiamo in pubblicità e ci spostiamo al Mambo. Grazie per l'attenzione e buona colazione, a tra poco.